בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. 3 minuti dopo le 21 e di nuovo insieme anche in questo primo giovedì del mese di maggio. Oggi è il 2 maggio e come di consueto giovedì sera dalle 21 alle 22.30 c'è Agostino Spalore assieme al suo fedele nonnetto. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Tu ci sei sempre. Ci sono sempre. Una volta non puoi mettere una bella donna lì al posto tuo, non so. Se fossi una donna rock, ben volentieri. Scherzi a parte, siamo felicissimi veramente di stare sempre insieme ad ascoltare la bella musica, come di consueto capita anche questa sera. Ovviamente ci sarà un live, un acustico con un cantante che ci raggiunge da Bologna. Lo presentiamo tra qualche istante, prima però, come di consueto, insomma, è quasi un rituale, i nostri dati tecnici, tra virgolette. Allora, prima di tutto il nostro numero telefonico in studio è lo 049-875-6423, mentre per i vostri sms il numero da fare per insomma mandare anche qualche domanda a questo nostro artista che ci viene a trovare questa sera, e, vi ricordo il 346-2320-033. Se ci state ascoltando via radio, allora le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Se invece siete sintonizzati tramite internet, cioè tramite lo streaming, siete collegati nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare 24 ore su 24 assolutamente in diretta tutti i giorni, qualsiasi volta voi lo volete, insomma potete ascoltarci lì tranquillamente. E poi navigando e visitando, meglio dire, il nostro sito troverete tutte le recensioni che mettiamo nei nostri artisti che passano nei nostri studi oppure ci raggiungono telefonicamente, oppure anche le recensioni sui dischi in uscita e anche i fatti che possono avvenire nella nostra regione, cioè il Veneto, ma anche o al di fuori della nostra cara amata regione. Poi ancora le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto 1, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco che è il nostro direttore artistico, e siamo anche su Twitter, siamo ovunque Maurizio, vero? Siamo un po'... Perché il rock è sempre ovunque. Il rock è sempre ovunque. Chiaramente. Stasera abbiamo un grande esponente del rock. Ci viene a trovare da Bologna. Posso dirlo, quando arriverai finalmente, Davide Lucchini? Sono arrivato. Ciao Davide, ben arrivato. Ciao a tutti, grazie. Ben ritrovato, anzi sono veramente molto contento di averti anch'io, qui. Anch'io sono contento di essere qui. Ci conosciamo dopo un po' di tempo, sì. Siamo in contatto, finalmente sì, sì, sei qui. Sì, era ora. Fatto un buon viaggio? Sì, tranquillo. Bene. Bene, bene. Ti sei fatto pensavo che Padova era così vicina, non mi ricordavo. Cioè. Beh, insomma, Bologna, Bologna non è tanto lontano. No, anzi, già si assomigliano anche un po', molto vicino. Beh, Bologna è un po' più grande forse. Sì. Ti sei fatto accompagnare comunque stasera. Sì, ho qui il mio chitarrista Andrea Caron. Ciao a tutti. Padovano Doc Caron, mi hanno detto un cognome. Sì, Caron, Caron sì. Nato a Bologna però Tu che sei amante del calcio tra l'altro, Davide, sì. Caron, lo dico anche a te, sì. È la vicepresidentessa del Padova. Grande. Sì, per vero. Quindi è una bella donna anche tra l'altro. Perfetto. Quindi intanto per stare in tema. Allora, benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie, a te, grazie. E anche a te Andrea. Grazie. Bene, caro Davide, terzo album questo mi sì, pare, questo è il terzo, e sì. Dicono che il terzo album è l'album della maturità, cosa ne pensi? Può essere. Può essere. Può essere perché, sinceramente sì, i brani sono un po' diversi dagli altri due, poi ho scritto quasi tutti questi brani mentre eravamo in attesa di mia figlia, quindi sì, sicuramente è più maturo degli altri, è più maturo. Forse a livello testuale soprattutto. Di tornando un po' indietro facciamo come i gamberi, vai. Che ci piace fare come i gamberi, vai. E hai cominciato a suonare intorno ai 18 anni, sì. Però hai trovato come maestro un certo signore che si chiama Giampiero Martirani, sì. Che è forse uno dei più grandi jazzisti italiani. Esatto. Fa piacere che lo conosci. Come mai hai avuto questo contatto con Giampiero? Beh, abbastanza per puro caso, perché vicino a casa mia c'è la sua scuola di musica. Io mi sono per quello allora. Se devo essere sincero, ecco, questa è la... No, no, la sua scuola di musica è comunque è iper consigliato da tutti, perché veramente a livello tecnico, io penso che anche Andrea abbia studiato, sì, studiato a livello tecnico e a livello è stato il mio maestro praticamente, e a livello umano sia una gran bella persona, niente da dire. Grande musicista, ti ha dato le basi praticamente, sì. Sì, sì, poi mi pare hai lavorato anche con chitarrista blues Giorgio Cavalli, sì. altro. Tu sei sempre i pezzi da 90, come beh, sei? Certo. Se no, sei sempre i pezzi da 90. Sì, con Giorgio abbiamo iniziato. Avevo già i brani del primo album, li ho proprio lavorati con lui. Infatti, la metà dei brani del primo album sono scritti con lui. E poi il primo album era, c'era un concentrato di tre musicisti: Alessandro Tozzi, Corrado Guidi e Paolo Parmigiani. Sì. Due sono ancora con noi. Chi sono che sono ancora con noi? Alessandro Tozzi, il batterista, e Paolo Parmigiani, il basso. Poi, è arrivato, poi è arrivato Andrea che ha fatto. Quest'anno abbiamo una new entry che lo saluto, Danilo Cappai. Benissimo. Andrea è arrivato nel secondo disco, mi pare. Nel secondo, sì. Sei arrivato nel secondo. Sì, sono andato nel secondo, una bellissima esperienza. È chitarrista disagico, psichedelico lui. Sì, sì. È un rocchettaro. Sì, sono un rocchettaro. Fondamentalmente, sì. Perché dobbiamo dire, cari ascoltatori, che con questo disco Davide si è un po' buttato, si è un po' indirizzato verso il rock. Per quello cito sempre il rock. Sì, è più rock. Poi, sinceramente, sono... Cioè, il primo album l'ho scritto da solo sulla chitarra elettrica, è stato lavorato con George, con sonorità più etniche, quindi una roba più, diciamo, più costruita a tavolino, però anche più etnica. Con loro è venuto fuori un suono più rock. Questo l'abbiamo proprio fatto insieme, questo album. Il secondo album già si allontanava dal... Sì, perché è stato comunque creato con la band. Ho capito. Ci abbiamo lavorato insieme e sai, cioè, è diverso, no? Quando lavori da solo è una cosa. Con la band viene fuori un suono più denso, più rock. Ma ce l'hai nel sangue il rock, Davide, tu? Sì, sì, dai. Sì. Cioè, più cantautorato rock. Ti piace il rock estremo, sinceramente, rock non lo ascolto tanto. Mi piacciono molto i Pearl Jam, per dire, di rock. Non è rock estremo, è rock raffinato quello. È molto. Molto raffinato. Trovo che sia la migliore espressione del rock. Ci diamo di vedere. No, io l'ho visto a Verona, Sì. Incredibile. Sono bravi perché cambiano spesso. Può cantare qualsiasi cosa, penso che sia una voce più bella. Quel piccolo strumentino, l'ukulele mi pare, no? Il grande successo l'ha avuto, mondiale, tutti hanno preso sto strumento perché Eddie Vedder ha fatto un disco su questo strumento. E anche quello è un modo come un altro per capire, per sondare, per cercare cose nuove. Certo, poi sai, quando hai una voce che emoziona... talmente tanto come la sua, perché proprio ti emoziona. C'è una grande bella voce, sì. C'è tutto dentro. Una più bella del rock. Sì, sicuramente. Rock indie, una volta si chiamava, adesso il rock di adesso. Sicuramente. E la voce di Davide Lucchini è bella anche la sua, Spero. Come stai? Bene, grazie. Bene, stai bene. Dovevi lanciare il pezzo o mi hai chiesto come sto? Io sto bene. Era un gioco di parole, Davide. Allora, come stai? Ci parli di questa canzone? Sì, questo è un brano piuttosto rock, dove Andrea ha fatto un bellissimo giro abbastanza psichedelico, un po' Cure, molto bello. Uh-huh. Sì, già questo pezzo si discosta proprio dagli album precedenti, c'è più rock, sicuramente. L'ascoltiamo? Vai. We'll be right back. sai cambiarlo, ma mi cambierà. Questa vita è già diversa, sa di libertà. Vorrei cambiarla, ma mi cambierà. Blue Time Live. Blue Time. Live. Insomma, abbiamo rotto il ghiaccio proponendo questa traccia numero 4, questo estratto dal nuovo, nuovissimo lavoro di Davide Lucchini, cioè Quando arriverai. Il pezzo era Come stai, con il punto di domanda, ovviamente. E Davide, questo è proprio la prima volta che lo fai sentire per radio, questo disco? Sì, questa canzone sì. È una grande esclusiva che abbiamo noi, insomma. Sì, sì, assolutamente. Siamo felicissimi, onoratissimi di questo. Grazie, ti ringraziamo veramente di cuore. Quando è uscito questo disco? Beh, è uscito il 2 di aprile. Abbiamo presentato al Mondadori di Milano, perché esce con un'etichetta di Milano, Top Records, distribuito dalla Edel in tutti i Mondadori Store, e non solo, però principalmente nei Mondadori Store. Quindi è recentissimo come uscita. Sì, sì, sì, proprio fresca fresca. Quindi è passato solo un mese, quindi siamo il 2 maggio. Quindi sì, un mesetto. Un mesetto. E adesso parliamo un momento del pezzo. Qui abbiamo il chitarrista qua davanti, esatto. Tu sei presente. Il discorso dell'arrangiamento. Parlavo con Andrea, a microfoni spenti, cari ascoltatori, che la caratteristica di Davide è di metterci il ritornello, la melodia. Però intorno alla melodia c'è il rock, o meglio c'è la... fase potente, certo. Adesso la fase potente me la spieghi te, perché c'è fatto un giro di blues anche dentro. Ah sì, sì, questo è, diciamo, al centro c'è uno special praticamente con un suono, con uno stile un po' sul blues, rock blues, rock, insomma, per staccare un attimo, anche perché la chitarra in questo caso ha delle sonorità un po' psichedeliche all'inizio, quindi abbiamo voluto staccare così. E come, si inserisce il cantato? Si inserisce il cantato di Davide in un pezzo simile? Beh, il cantato si è inserito bene, insomma, alla fine, quindi direi che è venuto bene. Insomma, decisamente. Poi avevi la voce un po' filtrata, come mai, Davide? Sì, beh, è un effetto che è stato fatto appositamente. L'ha registrato, l'ha mixato Biancani, che è abbastanza conosciuto, Maurizio Biancani. Tutto Lucio Dalla. Sì, sì, ne ha fatti parecchi. Ha avuto questa intuizione che... non è male. No, bello. Ma avete, una cosa ti chiedo: è stato inciso al primo impatto o ci sono state diverse? È stata più di una take? Sì, perché poi ognuno registra chitarrista. Abbiamo registrato tutti insieme. Come fanno i Pergem, ho sentito. Esatto, loro fanno, sì, fanno a spezzoni. Sì. Noi abbiamo fatto a spezzoni. Chiaramente si fanno tutti insieme. Sì, sì, no, ma ci sono due diversi modi di registrare. O fai tutto insieme, che forse non so, magari c'è più anima, non lo so, dico io. Quando registri tutto insieme, invece facendolo a pezzi, ognuno fa. Però poi bravo il tecnico. Forse è più esatto, sicuramente. Quindi non si sente assolutamente che questo era stato inciso a pezzi, sempre tutto un unicum praticamente. Certo, no, infatti. Quanto ci hai messo a farlo questo disco, Davide? Ah, il disco come registrazione o come idea? Diciamo? Idea, registrazione. Un annetto e mezzo. Sì. E magari scommetto che c'hai già qualcosa di pronto per il prossimo. Sì, c'è già qualcosa, sì. Qualche pezzo nuovo, qualche rifacimento di alcuni. Tu scrivi tutto, musica, canzoni? Sì, testi, quasi tutto, alcune cose le ho scritte con lui. E se no, scrivo quasi tutto io. Completamente, il pezzo completo. Sì. E come nascono le tue canzoni? Io leggo molta poesia, sono un po' innamorato della poesia, quindi mi faccio ispirare molto, scrivo tanto e poi ci suono un po' sulla chitarra o dove capi, sul pianoforte. Ma scrivi anche poesie tu? Sì, sì, però quasi tutte poi diventano canzoni. Ah, ecco, ecco. No, perché sennò ti chiedevo di leggermene una. Di no, dire... no, sì, buonanotte. Ho detto buonanotte in bolognese. Sì, sì. Comunque siamo un'ora e mezzo, ce l'hai fatta, insomma. Sì, sì, sì, no, beh, più o meno. Cioè, porta via un bel po' di tempo, poi. E dobbiamo sottolineare anche questo, Davide, che questi pezzi non tutti sono... scritti in quel momento, sono pezzi che poi tu hai ripreso, li hai riadattati. Sì, sì, ci sono pezzi vecchi che ho riadattato in chiave rock, sì, appunto chiave, con Andrea. Nella chiave nuova del nuovo disco. Sì, sì, esatto, esatto, della esatto. Nuova ispirazione, del nuovo andamento, possiamo certo, dire. Sì. Ok. Ho visto che casualmente ti sei portato un chitarrista con la chitarra. Sì, casualmente. Passava di qua, l'ho trovato. Ti va di suonare? Ma perché volesti? E lui è Carone di Padova, capito? Stava già qui. E allora io direi a questo punto che si potrebbe vero far sentire anche le mani di facciamo di la canzone che è uscito un videoclip, si chiama Dove sei, che abbiamo girato sulle Appennino bolognese, che bacino bellissimo. Di Suviano, non so se lo conoscete. No, non è conosciutissimo, è molto bello. E quindi abbiamo girato un video lì e è venuto fuori un bel video. Sì, confermo, anzi lo consiglio di andate su YouTube, Davide esatto. Lucchini, Dove sei? Dove sei? Guardatelo perché è veramente bello, simpatico. Poi c'è questo paesaggio veramente molto molto bello. Sì. Allora, ci fai questo pezzo? Lo facciamo, vai. Prego. Ho il mio cuore sulla collina tra i silenzi di ieri, la notte che è viva ma non c'eri più. Ho portato il mio amore sulla collina per vederti danzare, per saperti ancor mia, ma non eri tu. Pagheresti per sapere dove il sole va a dormire, dove sei. Non sai che vento si muove dentro, dove sei. Lo sai che il tempo qui corre svelto. Pagheresti per sapere dove il sole va a dormire. Sulla collina e seguendo il sentiero ho raggiunto la cima, ma non c'eri più. Ho portato il mio amore sulla collina per capire davvero che l'unica cosa che conta sei sempre tu. Pagheresti per sapere dove tutto va a dormire, dove sei. Non sai che vento si muove dentro, dove sei. Lo sai che il tempo qui corre svelto. Pagheresti per sapere dove tutto va a dormire. Dove sei? Non sai che vento si muove dentro, dove sei? Lo sai che il tempo qui corre svelto. svelto. A me è piaciuta molto, anche in questa versione acustica, con meno strumenti, grazie, ma grazie, sempre, grazie. Sempre è una ballad, però è una ballad che ci hai dato molto pathos, yes. Ti sei sollevato, ti sei alzato, hai gesticolato, davvero rocchettaro chiaramente. È una ballad, sì, però l'hai potenziata in questa versione acustica, sì, sì. Decisamente. Bene, benissimo, è un pezzo fatto molto bene. È una ballad però che viva che nel disco vira molto sul pop. Posso essere? Sì, sì. È anche un singolo, quindi essendo un singolo. Sì, sì, è più, un po' più pop, sì. Cioè, creata anche per quello, forse. Ma no. No, creata, cioè, aveva questo andamento praticamente. Mm-hmm, sì, sì, beh, è più un po' è un pezzo d'amore, no? Sì. Un brano dolce. Però c'è il contrasto elettrico di Andrea, certo, c'è sempre, certo. È sempre presente. Sì, rompo sempre le scatole. È rock, però ha molta melodia anche sì, lui. E quella la caratteristica tua è proprio di mettere, come abbiamo detto prima, inserire la melodia in un questo molto grazie anche a lui, ha delle bellissime melodie. L'idea di questo contrasto rock o contrasto elettrico è sua, tu gli hai detto sì, facciamo così, oppure come avete... Guarda, sinceramente non ci siamo parlati prima, cioè, penso che tra musicisti nascano delle alchimie, io e lui abbiamo sempre avuto questo modo di pensare molto simile, quindi ci troviamo parecchio. Immediatamente. Sì, sì, quindi quello che fa lui e me va sempre bene. Vi fidate uno dell'altro? Sì, sì, sì. In poche parole, insomma. Assolutamente. Beh, insomma, quando si sta insieme poi anche certo. Ci sarà un motivo, insomma, sicuramente. E per te, Andrea, com'è lavorare con Davide? Per me è stata una bellissima esperienza e lo è ancora, naturalmente. Certo. Io poi vengo dalla cover band, quindi da una cover band, cover band, quindi un altro genere, insomma. Quindi per me è stata una So che hai un duo in acustico. Io ho un duo in acustico con la mia ragazza che salutiamo. Ciao Gloria. Ciao Gloria. E niente, facciamo qualche volta qualche serata in giro quando ci capita. Quindi così, insomma. Provano in casa, una gran bella cosa. Certo. Una vasca è finita di mangiare. Risparmiano alla grande. E che repertorio proponi? Con il duo? Soprattutto anni 70-80. Io sono rimasto lì, diciamo. Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo. Io ho visto ieri sera un pezzettino del concerto del primo maggio. Sì. L'hai visto sì, tu? Sì, un pezzettino. Io ho visto Elio e le storie tese. Soprattutto. Ho visto un po' prima, quando c'era quella mostruosa band che ha suonato pezzi prog. Da Concerto Grosso per New Trolls a E Festa di PFM a Vittorio Cosma era. Esatto, poi c'era il Banco del Mutuo Soccorso, c'era Nicolo Fabi. Insomma, l'ho persa questo. Guarda, l'ho fatto qua. Però volevo sapere se l'avevi vista, cosa ne pensavi, insomma, di questo concerto. Ma il concerto è molto bello, sinceramente. C'erano pochi big, sinceramente, quest'anno. E costavano. Può essere costavano, quello è il problema. Dici che sia per quello? In teoria non dovrebbe essere gratuita la cosa. Sì, ti spiego, secondo me, sempre secondo me. Una volta, non tanti anni fa, è venuto Lou Reed, è venuta Patti Smith. Ah, sì, dipende, certo. Cioè, secondo me hanno dato, cioè agli stranieri devi dare un rimborso sicuramente. Con i tempi di crisi, a quanto pare non gli è andato. Non gli è andato. No, in ogni caso, dobbiamo dire una cosa: ha fatto bene sottolineando Agostino. Purtroppo è durato solo 40 minuti. Se durava di più, era ancora meglio. Quel prog lì era fatto molto bene. C'era Vittorio Cosma e c'è soprattutto il prog degli anni 70. Ha cominciato con la suite di Concerto Grosso per i New Trolls, solo strumentale. Meravigliosa, meravigliosa. La gente di una certa età la conosce, me compreso chiaramente, ma quelli giovani. Secondo me è uno stimolo per conoscere musica del passato di grande valore. Sicuramente. Certo, dici, certo, sicuramente. Che tu ami il prog, probabilmente qualcosa del prog lo conosci. Sì, sì, sì, certo. gente molto interessante. Io ieri non l'ho visto, mi sono addormentato. Ho visto, mi sono risvegliato su Tiro Mancino, un pezzo di Dalla molto bello. Mm-hmm. E ho visto che c'era Solieri alla chitarra, ecco, gli Area, mi sembra. Sì, esatto. Vittoria Cosma, c'era Solieri alla chitarra. E poi hanno fatto il primo pezzo, quella di Marta sui tubi, il vocalist di Marta sui tubi, ha fatto un pezzo degli Area. Degli Area, infatti, sì. So che sono in tournée. Sì, sono ricostituiti chiaramente senza Demetrio e stanno facendo il tournée. Un ritorno, le cose belle possono anche ritornare. Io ve l'ho chiesto perché tramite Facebook, insomma, io sono spessissimo la sera, ho visto un po' di commenti e non ce n'era uno di positivo, cioè tutti erano contro questo perché a livello non hanno capito nulla. No, a livello musicale, no. a livello musicale c'è molta polemica, non hanno capito niente, secondo me non era una cosa, secondo me, rifatta o così, era fatta con amore proprio della musica. A mio parere, sempre a mio parere, erano dei grandissimi musicisti, quello sì, assolutamente. Io, a me, l'ho trovata splendida. Io ho visto solo quel pezzettino lì e mi è piaciuto, però prima dicevano che non c'era granché. Ma va bene, era solo una piccola parentesi, una curiosità mia che volevo soddisfare. Facciamo ascoltare qualcosa dal disco tuo adesso, Davide? Davide, vai. Cosa hai scelto? Eravamo noi? Certo che sì. Pop. Molto pop. Molto pop. E andiamo con l'ho scritta insieme a lui, abbiamo scritto insieme questa. Bene. Ecco, tutti e due allora. Insieme, sì. La traccia numero 3. Qualcosa che conosco, il mio silenzio, la tua fotografia, non c'è più niente che non voglio, eppure eravamo noi. Quel giorno eravamo noi. Da inventare via, con te che arriverai domani, ti aspetterai anche se fosse un secolo, ora che sento le tue mani, eppure eravamo noi. C'è qualcosa che non sai, qualcosa che conoscerai, parole indispensabili che ora non vuoi. Il tuo silenzio, la mia fotografia, era il momento in cui ti ho incontrato, eppure eravamo noi. Ti giuro, eravamo noi. C'è qualcosa che non sai, parole indispensabili che ora non vuoi. C'è qualcosa we'll be right back. non vuoi. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sono le 21, passate da 33 minuti, questa è sempre Blue Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, appunto perché la state ascoltando. Ovviamente oggi è giovedì 2 maggio, siete all'ascolto della presentazione del nuovo disco, nuovissimo disco di Davide Lucchini che ci è venuto a trovare, quindi sentirete anche delle canzoni in acustico. Questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara cerca, insomma in qualche modo cerchiamo di regalarvi il più possibile questa immagine di questo cantautore che ci arriva da Bologna. Bologna città, Davide? Sì, Bologna città. Maurizio, le tue considerazioni sul pezzo? Sì, eravamo noi che io con Davide parlavo con Andrea mentre il pezzo andava e non ho, loro hanno scelto un altro singolo, però secondo me poteva essere un singolo potenziale. A me interessava anche l'impatto del gioco delle tastiere, che non era mica male. Chi l'ha fatto il gioco delle tastiere? Il tastierista. Tastierista, naturalmente. Che mi ricordo il suo nome, però. Marco Belluzzi. Ecco, esattamente. Bello, è una bella idea anche questa, sì. Delle tastiere. Sì, cosa sì. Dici, Davide? No, no, sicuramente. Poi la tastiera arricchisce molto il pezzo. Da un certo senso alle cose. Sì, sì, da aria. Da aria. Da aria. Non quella di Dario Baldambe. No, no, no, da... Sì, quando non c'è senti comunque che manca qualcosa alla fine. Tastiera è importante. Sì, importante, importante. Poi è un altro pezzo pop, possiamo dire questo. Sì, sì, sicuramente. Assolutamente. Come tu giustamente. Puro pop. Puro pop. Pop vuol dire popular, cari ascoltatori. Sì, sì, che può prendere una. Non demonizziamolo. Perché... esatto. Allarga l'orizzonte sonoro. Infatti. Va bene, io ho notato, Davide, in questo disco sì. Che tu hai rifatto, tra virgolette, una canzone che avevi fatto a sei mani con sì. Alessandro Maiani sì. E con Luana Bellucci, dedicandola alla tua terra, giusto? Sì. E la terra trema. Sì. E quindi ho scoperto che abbiamo un'amicizia in comune, noi due, cioè appunto Luana ed Alessandro. Certo, salutiamoli. Magari, ciao Luana. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Luana. Ragazzi. Ciao. Cantiamo un pezzo insieme. Come facciamo? Ciao cara. Davide, sei dappertutto. Non esagerare, dai. Tutto bene? Sì, tutto grande, bene. Grande, ho grande. Acceso la radio, guarda, per caso ti ho sentito. Ho detto aspetta che lo saluto. Grande, perfetto. Ciao. Ottimo. Ciao Luana, ben sintonizzata. Ciao Agostino, grazie. E grazie di essere qui e della tua disponibilità. È una carambata, Davide. Caramba, che sorpresa. Abbiamo gli accordi segreti io e Luana, capisci? Certo, certo. Allora, esatto. Visto che avete fatto questa canzone insieme, ce la volete raccontare? Che poi tra l'altro è un pezzo bellissimo, lo trovate tranquillamente su YouTube. Sì, io ho scritto questo brano proprio durante i giorni del terremoto. E ho provato a immaginare un ragazzo che scriveva alla sua amata lontana, sai, sono momenti molto particolari, molto certo. Intensi, e in quel momento mi è venuto proprio quel brano. Ho pensato di cantarlo con la bella voce di Luana ed Alessandro per, insomma, tra Emiliani, per dargli anche un po' più di colore e di forza, ecco. E com'è stato per te, Luana? Molto emozionante, penso, cantare una canzone del genere. Ma guarda, sì, non mi era mai capitato di cantare una canzone, insomma, che parlasse di un avvenimento così forte e poi che riguardasse noi per primi. E noi, mi ricordo, poi Davide, tu correggimi se sbaglio, in una giornata abbiamo fatto tutto, abbiamo sì, registrato sì, sia musica che video, se non sbaglio. Sì. E no, siamo stati bravi, dai, poi dopo su YouTube potrete guardare anche il video. Sì, lì il pianoforte era suonato da Alessandro Maiani, molto esatto, bene, esatto, ricordiamo. Sì. Che lo salutiamo anche, magari sì. Si sta ascoltando. C'è il telefono anche lui, sì. Telefono? No, no, no. Ciao, ciao Alessandro. Ciao. Ciao. Magari gli manderò il podcast, quindi sentirai i nostri certo. Saluti. No, ho voluto Luana perché era da tanto che volevo certo. Sentirla anche dal vivo qui in studio. Che è una vita che ho invitato anche lei, sinceramente, a venire. Esatto, qui. Sì. Però pian pianino mi sta convincendo adesso. Guarda che è vicinissimo. Sono un po' timida. ho sbagliato mestiere probabilmente, però sono un po' timida in fondo, sì. No, no, ma ti aspettiamo a braccia aperte, Luana, lo sai. grazie, con grazie la, mille. Con la tua musica. Com'è stato comunque lavorare con Davide? Che tipo è? Ma guarda, io e Davide ci siamo conosciuti 3 o 4 anni fa, proprio da Alessandro. In quel periodo io e lui stavamo, insomma, era appena uscito un nostro disco in parallelo. Uh-huh. E mi sembra, Davide, correggimi un'altra volta. Vai. Era il primo giorno di sole, giusto? Sì, sì, esatto, sì. Esatto, io avevo il mio in produzione, Luana Bellucci, e ci siamo conosciuti proprio là in production. Poi dopo, insomma, io ho aperto un concerto di Davide a Bologna un paio di anni fa. Così, insomma. Verrai scusa. No, compagni di scuderia, capito? Sì, esatto. Adesso non più, però. No, adesso in questo momento no. No, ora no. Vabbè. Però chissà, io sono ferma con le registrazioni in studio, con le produzioni. Adesso mi concentro un po' di più sui live e sulle serate nei locali. Però chissà, magari io. Vero, Davide? Vero, sicuramente. Esatto, non si sa mai. E poi sai che ti aspettiamo qui. Va bene, dai, magari ho qualcosa da raccontare, nel senso che è appena nato un nuovo trio acustico. Uh-huh. E sì, mi piacerebbe presentare i ragazzi che fanno parte di questo mio progetto. Va bene, ne riparleremo magari, va bene? Esatto. Luana, grazie della disponibilità. Grazie mille. Ciao, a voi, Luana. Buone ciao, chiacchierate. Ciao. Un bacione grande, un abbraccio, a presto. Ciao, grazie. Ciao Luana, ciao. Allora, Davide, la facciamo? La fate. Acustica? Sì, dai. Vai. Così? Mi tolgo il giubbotto. Che fa caldo. Facevo il fenomeno, fa guarda che ti toglierai il giubbotto. No, io il giubbotto di pelle rock invece me lo tolgo. Allora, facciamo questa canzone che si chiama... Facciamo. La fate la canzone. Telefono. Il telefono? Cosa c'è il telefono? Ok. Ecco, perfetto. È sparito. Okay. E dicevo, fate questa canzone che praticamente la fai senza Luana, ovviamente. Sì, certo. Sì, ma anche nel disco è diversa da come è nel video su YouTube, perché la canto da solo, certo, col gruppo, quindi è un pochino più rock nel disco. Quindi, La terra trema. La terra trema. L'alba e tu non sei qui con me, la terra trema ed io non so perché, non riesco a chiudere gli occhi per dormire, non riesco a chiudere gli occhi per pensare, e la mia casa è là, sembra chiedermi dov'è che andiamo, queste lacrime dov'è che sfoceranno, in quale mare andranno mai. Vorrei abbracciare la terra e dirle che se ne stia calma, che qui tutto quel che c'è è nato dalle mani di questi uomini. Ferma il tempo, ferma tutta questa paura, amore mio. Ferma il vento, dimmi ancora che domani sarai qui con me. E tutto quello che non ti ho detto mai ora pesa come un macigno, proprio quelle cose che rimangono qua. Tra le tende la notte si raccontano storie e favole per resistere, per stare su. Ma c'è una luce forte nella notte, c'è una speranza dove sembra esserci solamente buio e polvere. Ferma il tempo, ferma tutta questa paura, amore mio. Ferma il vento, dimmi ancora che domani sarai qui con me. ferma il tempo, ferma tutta questa paura, amore mio. Ferma il vento, dimmi ancora che domani sarai qui con me, con me, con me. Ti devo confessare una cosa. Andrea Caron. Andrea Caron. Certo. Davide Lucchini. Stavo dicendo, grazie, ti grazie. Devo confessare una cosa. Io l'ho scoperta questa canzone grazie sì. ad Alessandro. Sì. Che mi ha detto, guarda, è stato fatto un video con Davide, con Luana sì. e con il sottoscritto, dice, inerente alla disgrazia, insomma, sì. che è successa del terremoto in Emilia Romagna. La prima volta che ho visto questo video, che comunque è accessibile a tutti, lo possono vedere tutti, sì. mi sono commosso. Mi fa piacere. Perché vuoi per la storia, insomma, vuoi perché è stata fatta questa canzone, ma vuoi anche per le parole che hai scritto, Davide, poi anche per la melodia, perché è molto bella. Sì, sai, sono momenti difficili in cui si ha sempre bisogno di una persona amata vicino, penso, in quei momenti più duri, più in assoluto, più... Non so neanche come definirli, però c'è una paura costante che possa succedere qualcosa. È una cosa che, cioè, adesso che è passata, è lontano, però in quel momento hai sempre paura che possa succedere qualcosa. Vai in casa, dici, cacchio. Cioè, è una roba che è difficile anche da spiegare. Certo. Musicalmente, però. Questo adesso l'abbiamo sentita assoluta scheletrica, sì. cioè mm-hmm. chitarra e voce. Sì. È una cosa fondamentale di questo pezzo, secondo me. E il ritornello che è proprio dà un inquid in più, è proprio il ritornello apre. Che prende, sì. assolutamente, fatto, cioè, attira immediatamente, al di là del testo, dell'importanza della canzone, mm-hmm. del patto con cui è cantata, è il ritornello che attira, e queste piccole note introdotte dal piano, chiaramente, eccola qua, sì. il piano dà già un significato alla melodia, dà un significato al testo, dà una certa predisposizione, e tu ci metti dentro quel ritornello che è vincente, sì. secondo me, il ritornello che conta, oltre a tutto all'impianto, certo, ma il ritornello sì, dà molta forza, a mio parere. Certo, sì, sì, sicuramente. E forse queste sono le parole che colpiscono nell'anima, e per quello che sta questa forza incredibile. E questo ci andrà bene. Posso dire, dal vivo io ci vedo una bella chitarra rock, ma dura, dura. Guarda che Andrea ti sta guardando. Mentre il ritornello di rock, va dentro, una, sì. una svisata di Andrea ci sta bene, secondo me, dà proprio un impulso, una forza. Il pezzo certo, forte, cioè, sì, pezzo sicuramente la forza anche testualmente di reagire. Esattamente, no? Perché poi di continuare di cioè, applaudo proprio la mia gente, perché ha avuto una forza incredibile, cioè, pazzesco. Cioè. Si sono risollevati subito. Cavolo, di non si sono fermati. La serie, sì. Vediamo subito, vediamo cosa che possiamo fare. Ascoltiamo 30 secondi. Ferma tutta questa paura, amore mio. Ferma il vento. E dimmi che domani sarai ancora qui con me. Belle parole, Davide, complimenti. Grazie, Ago. Allora, 21:46, vi ricordo il nostro numero telefonico in studio 049-875-6423, mentre per gli sms, se volete mandare fare qualche domanda a Davide, è ben felice di rispondere alle vostre curiosità, almeno lo spero, vero Davide? Sì, sì, assolutamente. Allora, 346-23-20-033. Credo che torneremo al disco adesso. Sì, io ascolterei una bella cover. Adesso una ci bella fermiamo, cover di Mango. Ci fermiamo un momento. Perché hai scelto questo pezzo scritto da Mango e da Lucio Dalla? Perché? Beh, perché lo sento in qualche modo mio. Non so. Sai quando senti il pezzo scritto da qualcuno e dici, cavolo, è nel mio corpo. Cioè, nel senso, le parole avrei potuto scrivere, nel senso che lo sento. Io penso che le più belle cover... Non so, mi viene da pensare a Jeff Buckley, no? Vado un Alleluia. Po'. Alleluia. Siano proprio cose sentite, tu le senti tue. Fai una cover senza sentimento non ha tanto senso. Esattamente, no? È una roba... no. Ma se fai una cover uguale alla cover, non devi sentirle. Senso. Io penso che le cover vanno sentite profondamente. Devi sentire un po'. Però l'avete scardinata, è diventato un pezzo rock. Sì, più rock. È molto quella, più rock. Quella è una colpa mia di parlare con lui. Sì, l'abbiamo rivisitata completamente. Sì, l'avete rivisitata completamente. Sì. Già un pezzo molto importante all'epoca. Mango l'ha proprio lanciato nel filmamento. Già era famoso, però con un pezzo scritto da Lucio Dalla. Sì, dobbiamo sottolineare. Questo non lo sapeva nessuno, non lo sa nessuno. Dalla Mango l'hanno scritto questo. Questo non lo sa nessuno. Io, no, ma è un pezzo di Dalla, ma come Dalla? Questo è un pezzo di Mango. Hanno scritto assieme. Dalla scriva sempre qualcosa, cioè riusciva ad avere tanti diversi modi. Sfaccettature. Sì. Esattamente, con De Gregori, con tanti altri. È un personaggio strano, interessante anche per quello. Lucio Dalla è un gran musicista. Bella d'estate, versione di Davide e di Andrea con la band. Sì, con la band. La band dà molto a forza. Cavolo. Dai, salutiamo Alessandro Tozzi, gran batterista, ciao, Paolo Parmigiano, bassista, che ci seguono. Vuoi salutare anche qualche altro musicista che ha suonato nel tuo disco, già che ci siamo? Davide. Sì, Marco Belluzzi alle tastiere, che purtroppo ha suonato solo nel disco perché ha molti impegni. Lui è in tournée, non poteva suonare con noi. Però abbiamo trovato un grande tastierista che è Danny Cappai, che suona con noi. Suona da voi dal vivo, praticamente? Sì, dal vivo. Ok. E l'ascoltiamo. Allora. Certamente. Credimi o non ci penso mai, vedo che hai piatto, tu lo sapevi, ma da quando? Per tutti e due. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Completamente un'altra canzone, Davide. Sì. Colpa sua, sempre colpa sua. L'hai stravolta. Sì. L'avete stravolta. È un po' colpa nostra, diciamo, del gruppo. Arrangiamento. No, ma è un'idea interessante, come parlavamo a microfono spento, era coraggioso a prendere un pezzo famoso scambiarlo, rivalutarlo, distruggerlo, tirarlo. Ci sente solo la melodia. La melodia si capisce, però dopo l'andamento è proprio totalmente diverso, anche se tu col falsetto vai su anche te, non è mica semplice fare un pezzo simile. No. Devi prendere le misure al falsetto. Non è una cosa immediata, poi ci vuole di tempo, però. Ma veramente, per me è interessante. A me piace molto il falsetto. Ho usato anche i primi album. Ho sentito che ne usi spesso e volentieri. Sì. Non è facile, è difficile. No, però è come cantare, devi prendere un po' le misure a quello dove puoi arrivare, dove non puoi arrivare, cosa puoi fare. È una roba abbastanza fisica e immediata, ecco, insomma. Bene, anche a me anche il discorso degli arrangiamenti, il suono del pedale. Il pedalotto. Sì, lui ha sempre delle gran pedaliere. Io dico, viene in acustico, non avrà. No, ha la pedaliera anche qua. Un po' più piccolino. Esatto, pochi pedali. Che non sto utilizzando tutti, naturalmente, se no. Il chitarrista rock deve avere i pedali. Sì. Chi ha i pedali, chi ha qualche altra cosa. Vero, Andrea? Sì. A proposito di rock, Andrea, chi ti ispiri, diciamo, nel suonare la chitarra? Ne ho talmente tanti. Ma chi è che ti piace? Io amo molto Steve Lukather di Toto, che è il chitarrista di Toto, che amo, quindi è questo. Però come sonorità mi piace molto la sonorità anni 70, rock anni 70, quindi Rolling Stones o le Zeppelin o Deep Purple, esatto. Michael, ecco, messo Steve. Un pezzo che mi fa lacrimare, mi fa commuovere. E poi cos'è che ti piace, dicevi? Hendrix è il primo, vabbè. Hendrix è un'icona, quindi. Ma ce ne sono talmente tanti. Beatles mi piacciono, per dire. E se ti dovessi portare appresso in un'isola deserta 3 CD, cosa ti porteresti? Mi porterei un disco di Sting come solista, Toto naturalmente, e un Led Zeppelin. Basta. Quale Led Zeppelin? A una raccolta, mi va bene la raccolta. Oppure un live, ecco, un live. Sì, così. E Davide invece? Tre dischi? Sì, esattamente. Allora, Cruesa de Madi di André, wow. Proprio di pacca, quello è in assoluto il mio disco preferito. Poi The Dark Side of the Moon, wow. Dei Pink. Fammi pensare al terzo, il terzo Grace di Jeff Buckley. Hai citato Alleluia, quindi chiaramente. Sì. Incredibile, Jeff Buckley. Incredibile. Quante volte hai sentito Grace? In assoluto l'album, forse insieme ad André, che ho ascoltato di più. Anche il secondo è stupendo. Quello che non ha terminato, ma hanno finito il registrare, meraviglioso, grandissimo. Peccato, mi viene da dire. Quanti bei dischi. Peccato che se n'è andato troppo presto. Sì, veramente. Qualcuno dice, perché può darsi che non riuscisse a fare le cose che aveva fatto in Greece? Non lo so, è un mistero, non si è mai capito le correnti del Mississippi. Ho sentito da poco un brano di suo padre cantato da lui, bellissimo, incredibile. Che cos'era? Ti ricordi? Non mi ricordo il titolo, The Mountain, c'erano delle montagne, era incredibile. E suo padre era Tim Buckley. Tim Buckley, che era un musicista straordinario, aveva una voce straordinaria, molto più difficile di suo figlio. Bellissimo. Purtroppo se n'è andato, come detto, troppo presto, e viene citato da tantissimi musicisti che sono venuti qua a suonare, sempre Jeff Buckley è nei cuori di tanta gente. Un album solo, però, che poi con il tempo si è allargato. Sì, penso che sia uno di quegli album che segnano anche delle generazioni, no? Questo potere, secondo me, questo album ha segnato una generazione. Certo. Come può essere Tendi per Gemma, io parlo per la mia, no? Sicuramente ascoltavamo, è un altro album simbolo dei Pearl Jam. Sì, Forse è l'album più... Sì, qualcuno dice che è il migliore che hanno fatto in assoluto. Qualcuno dice no, ne hanno fatto tanti di belli. Però Ten ha dato una svolta, quello certo. Sì. La svolta con il tempo è lentamente, come Jeff Buck, come Grace, lentamente. Poi, certo. Poi si è ampliato e ampliato all'inverosimile. Come Nick Drake, stessa cosa. Nick Drake, sì, esatto. È la stessa cosa. Bene. Vogliamo fare qualcos'altro dal vivo? Certamente. Sì, volevo fare Polvere d'Oro. Io questa sera sto accelerando i tempi perché Davide ha fatto una scaletta lunghissima. Ah, vero, vero. Pensavo di star qua fino a domattina, capito? È vero, vero. Ho portato anche la tenda, perdonami. Poi c'hai la pizza che ti aspetta comunque. Certo, la tenda con la pizza. La tenda con la pizza. Allora, dicevo, ho portato tante canzoni, quindi è giusto farle sentire anche queste canzoni. Poi, sì. Tu hai parlato, sei andato a De André, vuoi farci sentire qualcosa anche di Andrei? Oddio, cioè, bisogna che il chitarrista sia d'accordo. Ah, ci proviamo, no, ci aspetta. Proviamo. Ah, Nina? Sì. Abbiamo, la facciamo? Sì, me ne avevi accennato prima, per quello ti avevo detto, se volete farla, sono le 22, giusto l'orario. Vai. Siamo assolutamente in diretta, stravolta la scaletta. I pedali. Vediamo se funziona. Ti ho messo in difficoltà, Andrea. Da una parte il miele mastica e sputa. Dall'altra la cera, mastica e sputa prima che metta nell'aria. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena e un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che metta stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. Se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che metta nel... Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena e un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Sputa prima che metta nel... Potevi restare lì perché fra poco canti qualcosa di tuo. Bellissimo questa. Molto bello. Rimango su? Sì, sì, rimani su, che tanto fra poco canti di nuovo. Sei qui per cantare. Grazie di questo omaggio, Davide. Mi sono permesso di chiedertelo perché avevi accennato prima. È un piacere, un piacere. Di Andrea è nel mio cuore, come quello di Maurizio, insomma, ovviamente. Certe canzoni ti fanno veramente emozionare. Sì, lui aveva questo grande potere, arrivava direttamente al cuore, oltre il cuore. All'anima. È incredibile. Maurizio, se vuoi dire la tua su, questa, su questo pezzo? È un pezzo che ha grande pathos, l'hai interpretato. Già il pezzo ha grande pathos per se stesso. E tu l'hai interpretato con molta, cioè, con molta predisposizione. Lo sentivi quasi tuo quando sì, l'hai interpretato. E anche il giro di accordi che ha fatto. Questa colorazione particolare che hai dato al pezzo da parte di Andrea. Quello dà un certo senso alle cose. E quando si parla di De André, si deve sempre essere... si deve avvicinarsi in una certa maniera, sì, che non si può sminuire, no, non si sminuisce, ci cerca di dare il proprio contributo. E questo è un pezzo di grande valore, grandissimo, di grande valore, assolutamente. Come mai ti piace questa canzone? Cioè... beh, l'ho ascoltato molto, c'era un periodo che ascoltavo solo De André. Cioè, ricordiamo l'album da cui tratto Nina, l'ultimo album, esatto, Anime Salve. E ascoltavo solo De André. È stato anche un periodo lungo, 3-4 mesi, non riuscivo ad ascoltare altro, anche poeticamente è immenso, grandioso. Se lo sapevo ti invitavo all'ascolto quella sera che abbiamo fatto la buona novella. Ah, cavolo. L'abbiamo fatta totalmente qui dal vivo, è stato veramente molto bello. Ma c'è un motivo perché Davide ascolta Anime Salve, perché lui ama Fossati. Anche, sì. Questo è il motivo. Anime Salve è stato scritto anche, assieme a Fossati. Sì. Fossati è stato il cardine di questo disco. Sì, sì, assolutamente. Poi ci sono dei pezzi. Penso che gli ultimi due che ha fatto musicalmente siano molto più ricchi degli altri. Sì. Croesa e Anima Salve. Aveva Pagani. Esatto. Musicalmente si sente. Anima Salve aveva Fossati. Sì. E il cantautore forse adesso è un po' diverso, ma una volta era abbastanza lineare e forse semplicistico, non per gli ultimi due. C'è un lavoro musicale incredibile. Anime è un grandissimo lavoro di cesello, praticamente. No, incredibile. È cesellato. De André non era uno che... ma anche Pagani, Pagani un lavoro. È ancora Mamma meglio. Per Pagani con la BFM. Ma a me ci ha messo tutti gli strumenti, cioè, si sente tutto il Mediterraneo proprio. Sì, Croesa del Mar, l'ho già detto un sacco di volte, ma lo possiamo ripetere. David Byrne di Talking Heads ha sempre detto che Croesa del Mar è un disco meraviglioso, uno dei più bei dischi della storia della musica. Sì. L'ha detto David Byrne, uno che si intende, certo, di musica, quello di Talking Heads qui. Cioè, certo. Allora, adesso ascoltiamo la musica di Davide Lucchini. Mentre suonavo ho pensato che non ho detto la mia passione per i Cure, altro disco che porterai nell'isola deserta. Quale assolutamente dei Cure? Non volevo... quale dei Cure? Ah, tutti. Cure li adoro. Disintegration. Grazie. Più psichedelico dei Cure. Sì, e Cure i Placebo li ascolto molto. Lui anche è sempre psichedelico in ogni caso. Il leader lui Cure. Lui fa quello che vuole. Sì, sì. E lui il Cure praticamente. Sì, no? sì, ecco, è così. È lui sempre. Potremmo dire Robert Smith. Sempre lui è Robert Smith. Beh, gli amanti dei Cure sanno, sa chi è Robert Smith. Sì. È uno che fa un po' di tutto. Le cose belle, le cose un po' meno belle, ma sempre di un certo... beh, non ti può sempre venire il capolavoro, no? Sono tanti, pochi. Ne ha fatti tanti dischi, ne ha fatti tanti. Ecco, De André è probabilmente uno che ha sbagliato veramente poche canzoni. Non l'ho mai trovato banale in niente, in tutto quello che ha fatto. Ha avuto tanti periodi, ma sempre di progresso, praticamente. Sì. Ha sempre trovato le cose giuste, sempre fatto le cose in una certa maniera. Beh, lui era De André, però ha sempre detto che se non veniva la canzone di Marinella, lui rimaneva avvocato, praticamente. E dobbiamo sempre ringraziare Mina, che l'ha sempre detto. Ok, possiamo andare. Cosa ci fai adesso, Davide? Niente, facevo Polvere d'Oro. Anche questo è un altro pezzo di sì, un certo questo è rock pathos. È dedicato a Polvere d'Oro. Potete immaginare cos'è, è una storia di dipendenza. Qui la dedico ad un amico o più alcuni amici che, sai, si sono un po' persi. Qua vado un po' contro gli stereotipi del rock, perché secondo me cadere in una dipendenza non è da eroe, ma è semplicemente una forma di debolezza. Invece, sai, molte volte il rock era una visto volta sì, una volta come sì, di cazzo, esatto. Sei un giusto perché ti cioè, una volta invece sì. Io la vedo in tutt'altro modo. Bene. E la ascoltiamo. Lei lo sa come prenderti, come farti impazzire. Lei lo sa, è sdraiata di là, nuda sopra il tavolo. Lo sa che hai bisogno di lei, non ti sai rassegnare. Lei è più dolce che mai, e stanotte vedrai, non ti farà dormire. Lei è più bella che mai, e stanotte vedrai che ti farà volare. Non scapperai, no, non te ne andrai via, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro. Lei lo sa e domande non ha, non ti vuoi raccontare. Lei lo sa e ti aspetta di là, nuda sopra il tavolo. Non scapperai via, no, non te ne andrai via, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro, è polvere d'oro. Lei non ti mentirà mai, ma è la tua ultima amica, e forse è l'unica che hai. Che hai. Dunque, voi ne potete vedere, cari ascoltatori, era tutto sudato, proprio sudato, è già caldo, ma molto sudato, perché il pezzo dava proprio la forza, l'irruenza, un testo importante, un pezzo importante, un pezzo potente. E Andrea l'ha cercato di cioè ha cercato di dare una colorazione, non è, chiaramente qui ci voleva la chitarra elettrica. Sì, qua sì. Assolutamente, proprio... spaccava, doveva spaccare. Esatto. Beh, è una mia interpretazione. Però è così, secondo me. Tu l'hai sì, dato sì. Una enfasi non da poco. Pezzo molto potente, forse sì. Il più potente, concettualmente il più potente del genere. Certo, certo. Questo è importante. Lui ha cercato, sai, aveva il giubbettino di pelle chiuso. Sì, sì, adesso cantava. Adesso sono in canottiera, praticamente. Abbiamo detto, caro Davide, dopo avrai caldo. Dopo avrai caldo. Si sta svestendo adesso, sì, piano piano. Perché già un musicista che si alza in piedi e comincia a cantare davanti al microfono, in piedi, e questo vuol dire che ha bisogno di gesticolare, di muoversi. Tu non sei una persona che sta seduta quando canta. No, assolutamente. A proposito, come, quando sei sul palco con i tuoi musicisti, come arrivate, come ci siete, che formazione avete? Ah, siamo in cinque. E tu come sei, scatenato? Dipende, sì, dopo mi carico, dopo un po', sì. In questo pezzo lo sento, sì, mi piace. Poi sai, con la batteria, tutto quanto, la sua chitarra, cioè senti proprio la forza dietro, capito? E quindi ti scateni. Sì, poi canti anche in maniera diversa, sai, una cosa... quando senti tutti gli strumenti sicuramente è più... Poi ogni pezzo è sé, no? Ogni pezzo ha la sua storia, quindi... E qua hai usato qua... molto il falsetto. Sì, qua sì, tutto falsetto, tutto nel falsetto, ritornello. Sì. Sì. E quello è molto... arduo, molto difficile. Poi, cari ascoltatori, dobbiamo dire che questo è dal vivo in studio con l'acustica, è molto più arduo, difficile. L'acustica è sempre più difficile che non l'elettrica. Ah, certo, sì. Che l'acustica, se sai suonare e cantare, ti sentono subito. Con l'elettrica, mi insegna Andrea, si può, sì, si può nascondere, fare qualche giochino, si può giocare. Bene, adesso lo facciamo riposare un pochino, vero Davide? Non mica tanto, non mica tanto. Mica tanto, mica tanto. Lo facciamo riposare e facciamo ascoltare la title track, Davide, cosa dici? Sì, Quando arriverai è la canzone che dà il titolo all'album e niente, l'ho scritto proprio mentre aspettavamo. Saluto mia moglie, certo. Teresa, ciao. Ciao Teresa. E mia figlia che ha dedicato il brano. E, si sai, chiama? Quando... Camilla. Camilla, ciao Camilla. Niente, pensavo che mi ero fatto l'idea quando insomma, sarebbe cambiato tutto e in effetti è così. Sì, sì, quando dopo la nascita del figlio, ma non è mai come lo pensi. No. Guarda, ti dico, è ancora più bello di quello che uno pensa, almeno per quanto riguarda me. Ti fai mille pensieri, mille cose. Sicuramente cambia la vita, ecco. Guarda, c'è un messaggio che mi è arrivato un minuto prima di cominciare la trasmissione. Papà, mamma mia, mi lascia andare a Bologna da sola. A proprio Bologna, sì, è sì, un caso. È un caso, ti giuro, te l'ho detto prima. Vabbè, ci ascoltiamo questa Quando arriverai, quindi dedicata a Camilla. Insomma. Sì, mia figlia, sì. Quando arriverai e il mio cuore si aprirà, quando arriverai tutto il grigio se ne andrà, come nuvola che attraversa la città. Quando arriverai, tutto questo svanirà. Sarò pronto a guidarti in questa bassa marea. Sai, c'è luce anche di notte quando il sole va. Il mio mondo cambierà. buon profumo. Un cuore così bianco può servire a sciogliere la trama di un inganno. Adesso cercherai un colore, qualcosa da indossare in questo giorno nuovo da inventare. Risuonano fragranti melodie. Soffieranno piano sulla tua ferita. Questi venti esotici pieni di malinconia. Alessandra cerca un bacio, cerca un sogno, cerca quello di cui ha bisogno, cerca un mare immenso insolito. Alessandra cerca Dio nella bufera, cerca il centro della sfera, cerca un uomo lento e ironico. Lei cerca. Questo è un omaggio all'album precedente, cioè sì. Siamo soli, Alessandra, yes. È una canzone che tu hai scritto, leggevo qui nella biografia, per una ragazza di Bologna. Sì, sinceramente non conoscevo questa ragazza, è un'immagine, molte canzoni nascono così, poi ci fai tutta una storia dietro, insomma è una ragazza che cerca la propria indipendenza e niente, decide di iniziare a viaggiare per trovare in qualche modo se stessa, no? Certo. Cambi aria, cambi modo di vivere per cercare di conoscerti. Abbiamo un vostro conregionale in ascolto, si chiama Paolo Parmigiani, che tra l'altro lui è un fedele ascoltante. Ho già sentito questo nome. Anche io l'ho già sentito, mi sembra un nome familiare. Ciao Paolo, dice io sono perseguitato dall'influenza in questi mesi, comunque sono in ascolto. E vi saluta ovviamente. Ma è in linea? No. Mi sta sentendo via internet. Ciao Paolino! Ciao Paolino! Ciao Paolo! Bene, 22:22, voi facciamo ascoltare ancora una canzone dal disco e poi torniamo in studio per i saluti finali? Sì, facciamo ascoltare il brano che apre il disco, si chiama Perfettamente Te, sempre dedicato alla mia figliola. Bene. Quindi c'è sempre lei in mezzo. Insomma. Quest'album c'è parecchio, sì. Anche. Bene. Poi come dicevo prima, anche ho sviluppato proprio il concetto dell'attesa in quasi tutti i brani del disco. Cioè non è solo l'attesa di una nascita, ma è un'attesa anche di un giorno importante, l'attesa del ritorno dell'amore o della conoscenza dell'amore, insomma qualcosa che in qualche modo ti cambi la vita in meglio, no? L'attesa di qualcosa di importante. Certo, l'ascoltiamo. Vai. Nelle vie del mio cuore ci sono nuovi giorni, è un silenzio da ascoltare senza più paure. Nelle vie del mio cuore il tuo nome adesso splende forte più del sole. Più paura e so perfettamente che non c'è più niente al mondo. Io so perfettamente te. E so perfettamente che non c'è più niente. Adesso io so perfettamente te. Nelle strade so perfettamente che non c'è più niente adesso, io so perfettamente te. Quindi sei scatenato, Andrea, vero? Questa sua sì. È un pezzo che Andrea ama particolarmente. Sì, sì, mi piace molto, come sonorità, come tutto, insomma, l'arrangiamento un po' di tutti. È un pezzo assolutamente rock. Rock, e poi si inserisce il cosiddetto pop song, la melodia di Davide. Allora, Davide, se qualcuno volesse acquistare questo nuovissimo disco. Sì, allora, è in vendita in tutti gli store Mondadori. E poi non solo, si può ordinare anche a Ricordi, anche altri negozi, oppure si può ordinare anche sul mio sito, che è davidelucchini.it. Io tengo il sottofondo, questa mi piace. Sì, perfetto. Quindi si può anche richiedere nel sito ufficiale. E che il sito, se no, i concerti anche prossimo. Allora andiamo per ordine. Sì. Il tuo sito? Sito davidelucchini.com. Poi sei su Facebook? Facebook, con la pagina ufficiale, e Twitter, e poi ho la mia pagina Facebook normale. Quindi se qualcuno ti contattasse potresti anche farglielo avere? Certo, assolutamente. Quindi poi nessun problema. Puoi anche spedirlo. Sì, tranquillamente. E invece i prossimi concerti? I prossimi concerti sono a giugno e abbiamo... allora l'8 giugno a Laguna Blu a Zola Predosa, provincia di Bologna. Poi abbiamo l'osteria Pub Rare 2 sempre a Bologna l'11. Andrea, correggimi se sbaglio. Sì, sì, sì. E poi siamo sull'Appennino a Vergato il 21 giugno, e dovrebbe esserci una data anche sui Navigli a fine maggio a Milano. Ah, però stiamo finendo di programmare, quindi questo fine maggio a Milano sui Navigli. Comunque nel tuo sito c'è scritto tutto. Sì, sì, sul sito ci sono tutte le date. Spero di averle dette giuste. Informazione completa? Come? Informazione completa? Sì, sì, assolutamente. Quindi spaccherete di brutto. Spacchiamo. Sì. Maurizio. Adesso lo spaccheranno anche qua, nel senso positivo del termine, perché concluderanno con un pezzo. È un disco rock, come abbiamo detto con Davide, è partito da cantautore, è ancora cantautore, però si è leggermente allontanato da quel modo là di fare musica per avvicinarsi al rock praticamente. È un percorso. Certo, certo. Io poi tendo ad adattarmi musicalmente molto con chi suono, dipende dal momento... Allora è venuta fuori questa bella band, sonorità. Certo, quella band ti ha dato proprio lo spunto per cambiare. Sì. Davide, il tuo prossimo futuro come lo vedi musicalmente parlando? Bene, spero, questo disco è partito bene, sono contento. E al vediamo di là cosa di, succede. E al di là di questo che stai già facendo il nuovo? Sì, il nuovo pensavo di fare una rivisitazione dei primi due con alcune brani nuovi, vediamo di sistemare un attimo anche altri brani dei primi due album, riproporli in maniera visto che ho la band, sta nascendo un suono, i primi brani, non avendoli fatto con loro, mi piacerebbe, sicuramente sono più completi, più belli, avere modo di riarrangiarli. Certo. Lavoro che stiamo già facendo, ecco. Tipo questo che facciamo adesso per salutarvi. Bene. È uno dei miei primi brani in assoluto. Allora, grazie di essere venuto qui questa sera a trovarci. Grazie a voi, è stato un grande piacere. Grazie davvero. Grazie mille. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato il nuovissimo disco di Davide Lucchini, uscito un mese fa circa. E si intitola Quando arriverai. Abbiamo cercato di farlo sentire il più possibile, così abbiamo reso omaggio a te e alla tua musica, insomma, e al tuo chitarrista, ovviamente. Grazie molto. È qui presente con la chitarra acustica. Però non si sa mai, un prossimo futuro, una bella elettrica che tu hai. Sì, il tuo bagaglio, più di una, più di una, appunto, non darebbe, sicuramente non farebbe molto male, anzi, molto farebbe piacere. Molto bene. Bene, è arrivato Renato Ferro, sì. Con, che ci succederà dopo di noi con la sua musica heavy metal, rock, sì, quindi rock, hard rock, rock classico. Classico. Quindi state lì, non cambiate canale. Prima, però, ci ascoltiamo l'ultima canzone con la quale Davide Lucchini e Andrea Caron ci salutano. Ciao a tutti, Nonnetto, ci sei quando tu? Domani. Domani ore 22:30 con Marco Borgatov e Durman, che è un gruppo di Ravenna, mi pare, sì, che fa musica con le nuove sonorità. Quindi sei anche tu sempre qui, insomma. Eh sì, sono qui, sarò, sì, sono qui anche venerdì, quindi domani. È una particolarità, di solito non ci sono, però stavolta il nostro direttore artistico, che salutiamo, Alberto Prisco, che praticamente è quello che inventa i live, che costruisce i live, ha deciso giustamente di avere uno spazio anche il venerdì. Certo. Io invece vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, andremo in Senegal, misto Italia, nel senso che abbiamo una tribù, tra virgolette, africana, un po' italiana, ci presenteranno il loro disco, si chiamano Café Tuba, un disco, garantisco, strepitoso, bellissimo, quindi saremo felicissimi di farvelo ascoltare qui in studio con le loro sonorità particolari, con tutti gli strumenti particolari. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21. Ciao ancora, buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, e ancora grazie a Davide Lucchini e Andrea Caron, che ci salutano con... Grazie, grazie. Ovunque andrai. Ovunque andrai. Ovunque andrai. Ciao. Questa notte abbia un senso, me lo dici sempre tu. Abbiamo perso fiducia nei sorrisi alla TV. Architetture lontane ci portano verso nuove strategie. Questo rumore assordante oramai non ci fa dormire più. Ovunque andrai sarò con te, fuori dalle distanze. Ovunque andrai sarò con te, nel tuo lento discorrere. Ovunque andrai sarò con te, al di là dei venti, delle apparenze. Che questa notte abbia un senso, me lo dico sempre, ma cambiare punto di vista vuole dire vivere. Avremo parole pesanti per dire addio, le più leggere per salutare un nuovo giorno, salutare un nuovo giorno. Ovunque andrai sarò con te, fuori dalle distanze. Ovunque andrai sarò con te, nel tuo lento discorrere. Ovunque andrai sarò con te, al di là dei venti, delle apparenze. Serenate di paese non ci fanno uscire più. Questa notte è senza stelle e sembra non finire. Serenate di paese non ci fanno uscire più. Questa notte è senza stelle e sembra non